La mia sensazione di libertà l'ho provata uscendo da una processione. Non ho potuto fare a meno di seguire la conoscenza. Quando si fa politica, quando si combatte, la vita può diventare estroversa, esteriore. Sta lì fuori, sta tra gli altri. È un interessere. Quello che so di certo è che non riuscirò mai ad abbandonare una conversazione con l'arte, ma proprio per me il teatro è stato esattamente il luogo della riappropriazione del corpo. È più una storia di liberazione piuttosto che una storia di libertà. Il gesto di maggiore di libertà è stato proprio quello di riconquistare il tempo, togliendolo per esempio al lavoro. Sull'individuo il mondo è una ferita. Posso far finta che non ci sia il mondo, ma se mi occupo di teatro non posso che vedere la ferita del mondo, e che quella ferita del mondo è la mia. Per questo, per nient'altro, non posso farne a meno. I got no. I miei occhi sono sempre così, ti ci abituerai, rispose il gatto. Preferirei andarmene, i miei figli mi aspettano. I tuoi figli ti aspettano. Intanto, vattene più presto che puoi. Vorrei solo farti qualche domanda. Parla, te ne prego, è davvero molto tardi. Ohimè, il mondo si fa ogni giorno più stretto. Prima era così vasto che ne ebbi paura, presi a correre e mi rallegrai nel vedere finalmente a destra e a sinistra in lontananza dei lunghi muri. Ma sono dei lunghissimi muri che si avvicinano velocemente gli uni agli altri, così velocemente che mi trovo già nell'ultimo spazio disponibile e vedo laggiù, nell'angolo, la trappola in cui di corsa mi sto precipitando. Beh, non dovresti fare altro che cambiare direzione, disse il gatto. Se lo mangio. Ci sono quattro racconti di Kafka che erano stati concepiti dall'autore per stare insieme, poiché girano tutti e quattro attorno alla stessa questione: cosa sia quel fenomeno che chiamiamo arte, quel destino che è essere artisti. Uno di questi racconti è Josefine la cantante, o Il popolo dei topi, che Kafka scrisse verso la fine del marzo 1924, prima della partenza per il sanatorio del Wienerwald, prima di morire. Il dottor Klopstock, in una lettera, riporta le parole di Kafka: credo di aver iniziato al momento giusto a studiare lo squittio degli animali. Ho appena finito una storia su questo argomento. La pubblicazione del racconto poi fu anticipata sulla Prager Presse il 20 aprile 1924. Il titolo all'inizio era solo Josefine la cantante. L'amico di Kafka, Max Brod, riporta uno dei biglietti che Kafka scriveva in sanatorio. Non poteva più usare la voce. La voce era diventata un fischio flebile. La tubercolosi gli aveva preso la trachea, l'epiglottide, e in questo biglietto Kafka scriveva: al racconto bisognerà dare un titolo nuovo, Josefine la cantante o Il popolo dei topi. Un titolo con O non è molto bello, lo so, ma qui avrebbe forse un significato particolare, ricorda un po' la bilancia. Il lunedì 2 giugno 1924, il giorno prima di morire, Kafka lavorò alla correzione delle bozze e continuò anche il mattino seguente. Mentre lo faceva, disse poi il dottor Klopstock, le lacrime gli rigarono a lungo le guance. Non vada via, disse Kafka ad un certo punto. Non vado via, rispose il dottore. Ma vado io. Sto andando via io. Il libro uscì nell'estate, ma Kafka non l'ha potuto vedere perché oramai non c'era più. Il racconto inizia così. La nostra cantante si chiama Josefine. Chi non l'ha sentita non conosce il potere del canto. Non c'è nessuno che non sia trascinato dal suo canto, fatto tanto più apprezzabile in quanto la nostra specie nel complesso non ama la musica. Una pace silenziosa è la musica a noi più gradita. La nostra vita è difficile, e anche se abbiamo provato a scrollarci di dosso tutte le preoccupazioni quotidiane, non riusciamo più a elevarci a simili cose tanto lontane dalla nostra solita vita come la musica. Ma noi non ce ne rammarichiamo troppo, nemmeno a questo arriviamo. Pensiamo che la nostra qualità migliore sia una certa furbizia pratica, di cui d'altronde abbiamo anche estremo e urgente bisogno. e con questo sorriso furbesco siamo soliti scrollarci di tutto, anche se, ma questo non capita, dovessimo mai desiderare la felicità che forse viene dalla musica. Fa eccezione solo Josephine. Lei ama la musica e sa anche trasmetterla, è l'unica morta. Lei, la musica, scomparirà dalla nostra vita, chissà per quanto tempo. Dove mi abbiamo bisogno? Hai visto i trucchi di Natale? Hai visto i trucchi di Natale? A me mi fanno schifo, quelle lì mi fanno schifo, a me mi hanno detto così. Coglio, sei un coglione! Io le pago per dormire! Concentrarsi è la vostra arma migliore per essere produttivi. Un altro grande vinci! Seguitemi anche su Instagram dove posto un sacco di contenuti divertenti con tutti. Avanti! Per Cristo! Ma sai qual è il problema? Che tu sei un negro, sei una razza di merda e rimanete sempre schiavi della vita. Tu rimarrai schiavi a vita, devi fare solo il negro, guarda, come li fate tutti quanti. Perciò sono i negri di merda. Ma fate schifo di sé! Schifosi, che vieni da fare? E t'accanto quest'anno mi hanno giudicato. A 44 te la tamperare! Ti piace un cazzo libro! E terribile. Montavano sulla cassa del carbone, scendevano dalla cassa del carbone, attraversavano la stanza in diagonale, tracciavano cerchi, rosicchiavano il legno, fischiavano di certo. E io dormivo. E sempre avevo il senso del loro silenzio, del lavoro clandestino di un popolo di proletari oppressi cui la notte appartiene. Segno di tutto il mio essere. Non osavo accendere la luce, solo mettere un grido di tanto in tanto per cercare di spaventare. Così è trascorsa la notte. tristezza, la mattina non riuscivo ad alzarmi, sono rimasto a letto fino a luna. Tendo sempre l'orecchio al lavoro instancabile di uno di loro dentro l'armadio, a chiudere la notte o a preparare la prossima. Cosa fa? Josefine, canta. Non può fare a meno di cantare. E mentre canta, il popolo dei topi si ferma, interrompe la macchina produttiva che lo tiene in vita, viene trascinato via dalla sua bellezza, riscaldato dalla sua potenza. E allora riaffiorano i sogni. E per un attimo il popolo fugge dalla durezza della vita di tutti i giorni, un attimo di libertà. È un'emozione tanto forte da fermare questo popolo che fermo non sta mai, che corre di qua, di là, per scopi spesso non molto chiari. Josefine non deve far altro che reclinare la testolina, aprire la bocca e in questa posizione fa capire che intende cantare. Può farlo dove vuole, può prendere un qualunque spazio, un angolo, un buco, e il popolo capisce che sta per cantare. E accorre in processione. Josefine canta, anzi fischia come tutti, ma il suo fischio, seppur più flebile e imperfetto, ferma questo popolo che è schiavo e artefice della propria corsa, che anche quando è costretto a fermarsi per un evento straordinario e raro che non c'entra niente con Josefine, un'emergenza che riguarda tutte e tutti, quelli che stanno su, quelli che stanno giù in questa nostra grande terra, in ogni angolo di questa terra sconfinata, gli basta un attimo, siete liberi. Potete uscire, potete ricominciare, che subito questo popolo è pronto a far girare di nuovo la ruota con l'illusione di essere tornato alla libertà, felice, felice come in certi giorni di festa. E questa sua capacità di adattarsi è proprio una sua specifica risorsa, però è anche una grande emozione. Topi da laboratorio siamo, e tant'altro. Ma anche Josefine lo è, no? Dirà qualcuno. Sì, sì, ma lei canta, canta, dirà qualcun altro, no? Canta e scatena un'emozione così forte che per un attimo, ci sembra come per magia di aprire i cancelli della gabbia e di vedere una via d'uscita, una liberazione. È questa la libertà? Non lo sappiamo, ma è meglio della schiavitù, pensiamo. È un'emozione, si può dire questa parola. Ci si riunisce, è una cosa semplice, ci si riunisce per vederla cantare con questa voce increspata. E lei è tutta in quel gesto, è tutta lì in quella posizione e sprigiona una gioia che noi raccogliamo. E alla fine è esausta come un cigno morente. E allora accade questa cosa, che non siamo più soli. Che quasi sembra che quel canto sia nato proprio da noi, che era un canto che anche noi sapevamo cantare. E adesso lei ce ne ha rivelato l'essenza, l'origine. Ce l'eravamo dimenticato, vero? Nell'oblio delle cose dimenticate del nostro popolo, come un vento, una raffica di vento che scaccia via le nuvole, fa paura. Possiamo non averne paura di questo vento che ci fa sentire liberi, come quando eravamo bambini, te lo ricordi? Quando eri bambino che cantavi e ballavi e stavi tutto in quella cosa, eri libero, te lo ricordi? Dovremmo cercare ancora nell'archivio. Che cos'è la libertà? Cosa vuol dire essere liberi? Secondo me, la stessa cosa che vuol dire per te, dimmelo tu, no? Tu dimmelo! Una sensazione. Una sensazione. Come spieghi a qualcuno come ci si sente quando si è innamorati? Come spieghi a qualcuno che non è mai stato innamorato come ci si sente quando si è innamorati? Non ci riusciresti neanche a provarci. Non ci riusciresti. That's what I mean by free. I've had a couple of times on stage when I really felt free. And that's my mouse. That's really something else. Like, like, I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear. Lots of children have no fear. That's the closest way, that's the only way I can describe it. That's not all of it. But it is something to me. No fear. No fear. Allora, com'è possibile che un popolo che non conosce la musica possa comprendere il canto di Josefina, un canto così straordinario che può essere compreso anche da un popolo privo di gusto e di sensibilità estetica? È la pelotante. Non è solo un fischiare. Il fischiare lo conosciamo tutti. È la vera abilità del nostro popolo, o meglio, non un'abilità, una caratteristica espressione di vita. Tutti fischiano, no? Senza accorgersi, senza rendersene conto. Come respirare. Josefina si presenta con aria solenne per non fare altro una cosa consueta, schiacciare una noce. No? Nessuno oserebbe radunare un pubblico e schiacciare una noce per intrattenerlo, no? Nessuno oserebbe convocare un pubblico e schiacciare una noce per intrattenerlo, no? Nessuno. Nessuno pensa di spacciarlo per aria, no? Ma se lo fa. Possiamo davvero parlare di un semplice schiacciare noci? O meglio, si tratta di un semplice schiacciare noci, ma il fatto è che abbiamo sempre ignorato quest'arte perché ne eravamo perfettamente padroni, no? E solo adesso questo nuovo schiacciatore di noci ci dimostra la vera essenza. Nel qual caso, per ottenere l'effetto voluto, potrebbe essere addirittura utile che questo nuovo schiacciatore di noci fosse un po' meno abile nello schiacciare noci della maggior parte di noi. Con Josefina le cose stanno più o meno così. In lei ammiriamo ciò che in noi non ammiriamo affatto. Per comprendere l'arte di Josefina non basta ascoltarla, bisogna vederla. Eccola lì, quella creatura delicata che vibra specie al di sotto del petto in modo angosciante. È come se avesse concentrato ogni sua forza nel canto, come se tutto ciò che non serve al suo canto fosse privato di ogni energia, quasi di ogni possibilità di vita, come se lei fosse spogliata, esposta, affidata solo alla protezione di spiriti buoni, come se un alito di vento freddo potesse ucciderla passandole accanto, mentre lei, sottratta a se stessa, dimora nel canto. E allora subito ci immergiamo anche noi nel sentimento della folla che ascolta, alta, corpo contro corpo, respirando timidamente. Vagato fischiettio infantile di Josefina. Josefina è una bambina, sì. È un problema questa cosa. Noi, il nostro popolo, ha un problema con l'infanzia, lo sappiamo tutti. Sì. Ora, noi non siamo degli storici, ma sicuramente negli scritti, no? Nei testi, nelle scritture, si parla di questa cosa, del problema del nostro popolo con l'infanzia, il nostro popolo non conosce giovinezza, a malapena una brevissima infanzia. Vero è che si avanzano regolarmente richieste affinché ai nostri bambini sia concessa una particolare cura, una particolare libertà, il loro diritto a un po' di spensieratezza, no? Un po' di gioco, a scoraggiare un po' qua, un po' là. Si avanzano regolarmente richieste in tal senso, ma nella realtà della nostra vita non c'è niente che avrebbe minore possibilità di essere concesso, e ben presto le cose tornano come prima. Nella realtà della nostra vita, un bambino appena compie i primi passi deve provvedere a se stesso come un adulto. Ora, i territori che abitiamo, per ragioni economiche disseminate, i nostri nemici troppo numerosi, i pericoli che incombono ovunque, troppo imprevedibili. Non possiamo tenere i nostri figli lontani dalla lotta per l'esistenza. Se lo facessimo, per loro sarebbe la fine prematura. Dai, nostro popolo, sciamano a brevissimi intervalli le schiere sterminate dei nostri figli, sui tendoli finché non sanno ancora fischiare, o rotolando gli uni sugli altri perché non sanno camminare, i nostri figli, i figli del popolo. Per quanto questa cosa sia bella, non possiamo garantire ai nostri bambini una vera infanzia, e ciò ha le sue conseguenze. Una certa natura infantile del nostro popolo che non si è ancora spenta, che poi è in netto contrasto con la parte migliore di noi, quella furbizia, quell'intelligenza pratica, no? È vero, a volte ci comportiamo da stolti, proprio come fanno i bambini, che sono scialacquatori, generosi, insensati, così tanto, tanto per divertirsi un po'. E di questa natura infantile del nostro popolo approfitta da sempre Josefina. Josefina è convinta che lei a proteggere il popolo, che lei a salvarci da questa condizione politico-economica che durerà non si sa più quanto tempo. Ecco, vita, che è lei a infonderci energie, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi siamo troppo vecchi per il suo campo, per la sua emozione, per questo slancio tutto in avanti, col petto in fuori, tutta sudata, tremante, tutta fuori di sé, no, tutta questa vita, noi siamo troppo vecchi per tutta quella, qui non si respira più la vita. Non si respira più la vita. La vita. Noi appena nasciamo siamo già vecchi, abbiamo perso la giovinezza, abbiamo perso l'infanzia, perfino nell'emergenza, perfino in un tempo come questo che è uscito dai cardini, come direbbe lei, perfino in questo caso non osiamo pensare, non siamo nominati. I bambini non esistono, sono già vecchi. un fischiare di tanto in tanto. Ecco quello che fa per noi, un fischiettio di tanto in tanto. La nostra esistenza è misera. Affanni, sorprese, tanto che il singolo mai e poi mai potrebbe sopportare tutto ciò se non avesse sempre, giorno e notte, il sostegno dei compagni. E di fronte alla catastrofe che incombe un migliaio di spalle, tremano. Ecco, mi arriva Giusefina. Pensa che sia arrivato il suo momento. E canta. Canta. E poi da qualche tempo ha cominciato ad avanzare delle richieste. Chiede di essere rispettata, di essere compresa, che la sua arte sia riconosciuta e che per questo smetta di far parte della catena produttiva del cantare. E che questa cosa abbia una sua dignità. Che le siano riconosciuti i tempi per le prove, la possibilità di tanto in tanto di ammalarsi. È capricciosa questa Giusefina, o no? È presuntuosa, vorrebbe che tutti la adulassero, che tutti accorressero nella modalità che lei richiede. E si illude che sia lei, ma non sa che quel che fa già previsto. Lei si ribella alla costrizione del carnefice con questa cosa del canto che ha fatto sua e pensa che sia sua la scelta, ma quanti artisti prima di lei hanno dovuto cantare, intrattenere i nostri soldati per non fare la fine degli altri topi, quanti? Non si sono mica rifiutati, lo sappiamo tutti. Certo, era questione di vita o di morte, ma non si sono mica rifiutati, lo sappiamo tutti. E poi a volte no? Sorgono dei dubbi. Le cose poi non siano proprio così, no? Questo lei è il fischio che si innalza laddove tutti gli altri hanno imposto il silenzio. Come se fosse un messaggio del popolo, una ventata d'aria fresca, un messaggio che noi stessi ci siamo mandati, un messaggio che noi mandiamo a noi stessi. E ci sarebbe bene un po' di vento, questo popolo, noi, che diciamo francamente, ma soprattutto la furbizia innocente, l'intelligenza, il pettegolezzo di labbra, no, si capisce, questo popolo non può darsi in modo incondizionato, e questo anche Giusefine lo sa, ed è ciò contro cui combatte con tutto lo sforzo della sua debole gola. Giusefine, che tenerezza, no? che fragilità, sembra quasi che ci si debba prendere cura di lei. Il popolo si prende cura di Giusefine come un padre si prende cura del figlio che pende verso di lui la manina. Questo popolo sa essere un padre, questo popolo sa essere un vero padre. Io me ne impiccio della vostra protezione, dice lei, già, fischi, pensiamo noi, questa sua opposizione, questo suo ribellarsi, è un atteggiamento infantile ed è tipico del padre, non farci caso, il suo canto non è perfetto, È un canto crepato, se ne sta lì con le braccia aperte, il collo allungato all'inverosimile, e per questo arriva addirittura a pensare di poterci salvare. Pensa addirittura di poterci salvare, scacciare la sventura, te ne stai lì, ti metti a cantare, poi improvvisamente ci fai vedere chi siamo e per questo pensi di poterci salvare da tutta questa immondizia dentro cui non vi stiamo. Non c'è un salvatore. Non c'è un salvatore, questo è un popolo che si è sempre salvato da solo, a costo di sacrifici, che va avanti alla cieca, ma va avanti! Si accontenta, sbraita, ma si accontenta, non c'è un salvatore! E questo anche Giusefine lo sa, che da sola non è niente. Da sola non è niente. Questa è una guerra, dice lei, e io la combatto. Certo, mi si può rimproverare un po' di distrazione, ma non molto di più. Oh, per inteso, la maggioranza degli esteri combatte, no? però lo fa come tormento, come quando in sogno si alza un braccio per scacciare un'apparizione. Io combatto all'andiamo opposte di mia volontà, fino a sfinire completamente le mie forze. Perché sono uscita fuori a combattere agli amorti? Perché sono ora la prima sulla lista del nemico? Non lo so, non lo so. Forse un'altra vita non mi pareva la pena valere di vivere. E lo so che questo canto non è perfetto, questo canto non salva nessuno. Ma non è questo il punto. Il punto è che non riguarda più solo me. Il punto è che non ci sono solo io qui nell'ombra a combattere contro i draghi. Non è mai stato un gesto individuale, no. È qualcosa che si costruisce nell'ombra di altre singolarità e che poi esce fuori e genera un fatto che ci sposta finalmente. E che fa entrare un vento nuovo che dà senso a me che sono qua, un altro come me che sta di là. Questo è cosa finisce per me. Allora sì, no. Ci radiniamo con il tempo, che ci stringiamo gli uni agli altri, come se dovessimo bere un calice prima della battaglia. Come se questa non fosse più un'esibizione canora, ma un'assemblea popolare. Al contrario, come se ogni assemblea popolare, per fare storia, dovesse avere i tratti dell'esibizione canora. Chissà cosa accadrebbe, no? Finirebbero le chiacchiere troppo. E il canto non è solo un fischiare, non trema un po' troppo, non trema un po' troppo. È un attimo che prima abbiamo messo là, così, così, dalle stelle alle stalle. Tutta la miseria della nostra condizione. Un tanto ci siamo fatti bene. Perso quel ricordo di quando siamo stati lì, veramente, in quel gesto di più, in quel desiderio. E lo ricordate? Tutti, la sacralità, la parola, la visione. Qualcosa che si irradia in ogni direzione, no? Che anche la scimmia dentro la gabbia nel ricordo della libertà. Forse la libertà è proprio questo non poter fare a meno di vivere come si vive, che poi il tipico di Giuseppina, lei se ne sta qui, esposta nei ratti che diventa, ha dato tutto. Cosa può fare di più? Cosa posso fare di più? Se non stare qui, tutta dentro a questa cosa che sto facendo fino all'ultimo respiro, tutta in questa sensazione fino all'ultimo fischio. Io mi sento viva, come te, mi fosse concesso di farlo, di prendermi le parti, se non mi ha bisogno. Facevo la scimmia in uno spettacolo, alla fine mi arrampicavo su una colonnina, su una tras, così, con la velocità dell'animale proprio, una velocità che non avrei avuto se non fossi stato così dentro quella cosa da essere fuori da me, tutto dentro per essere fuori. Avevo 20 anni, adesso ho 50, non avevo una pancia né questo né quello. Che meraviglia non avere più 20 anni. Non avere più nemmeno la speranza che le cose possano cambiare. La meraviglia dello spavento che mi danno ancora i vostri occhi, ancora. Gli occhi di mio padre prima di morire. C'era questo sguardo, dei mostruosi interrogativi di cose non dette, di cose che nemmeno lì io sono riuscito a dire. Pensavo che avessi fatto quel gesto, forse mi avrebbe spostato, no? Perché avrei avuto meno paura, sarei stato meno pauroso, più libero. Avrei avuto falsa riconoscibile. Ci sono, no, dei gesti che ti spostano, delle persone che non possono fare a meno di vivere come vivono, no? La meraviglia di quella schiena che danza, il palcoscenico in diagonale lasciando una scia di luce meravigliosa, pure quella, la meraviglia di un concerto in una chiesa sconsacrata con il sassofonista che suona solo il boccaio, il violoncellista che tutta pizzica lo strumento senza mai suonarlo veramente, tutti dentro quella cosa da essere fuori, tutto liberi, liberi, completamente liberi. E non è la fame che cerca di esaurire, semmai è la gloria, è la gioia della gioia donata, che non troviamo più, non è più. E allora, butto tutto all'aria, butto tutto nel vento, esco fuori, attraverso quella piazza, li percorro, quel vicolo, vado a cercare Josefine fuori, nelle strade, nella storia, la meraviglia di quel corpo nero, busto, che canta freedom, freedom, freedom, tutto fuori di sé, completamente dentro quella cosa, non si accorge nemmeno che si allontana dal microfono, se ne va sulla torretta, in fondo al palco, continua a suonare, ma nessuno lo sente più. Josefine la vedo che canta, che salta, che alza l'asticella, alza il desiderio. La vedo che si siede là dove non ci si poteva sedere. La vedo che alza i pugni alle Olimpiadi del 68, che ha 15 anni, ogni venerdì scende in piazza, sciopera. E questo collettivo di artiste sudamericane, che prima della pandemia ha creato un canto, una danza contro la violenza sulle donne, che probabilmente è nato in un teatro e poi è esplosa, è arrivata negli angoli più remoti del pianeta, laddove anche solo respirare per una donna è un pericolo. In fondo chiediamo tutti solo di poter respirare, no? Anche con un ginocchio sul collo chiediamo solo di poter respirare. Kafka lavorava la mattina in un ufficio di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per pagarsi le pubblicazioni, e il pomeriggio per volere del padre nella fabbrica di famiglia che lavorava l'amianto. E si vede che un filamento di questo amianto ha cominciato a lavorare in gola e nella gola di tutte le altre operaie. La mattina lavorava in ufficio contro gli infortuni, il pomeriggio, e poi magari lo stesso amianto che abbiamo respirato noi quando abbiamo occupato le fabbriche per provare i nostri spettacoli. Siamo tutti corrotti. Che contraddizione, no? Siamo tutti in una contraddizione continua. Non sarebbe più semplice se tutti avessimo una piccola base solida su cui contare, no? Non ci renderebbe più liberi avere una piccola base, ogni persona ha una piccola base su cui contare. Lo so che sto andando fuori tema, eh? Lo so. È solo che il canto di Josefine risuona nel mondo. Ed è qualcosa che assomiglia a un movimento, a una postura, a un battito cardiaco che si contrae ed esplode, e quando esplode occupa le strade, le città, i resti, come una vibrazione che passa da un corpo all'altro. Per questo il popolo si ferma quando Josefine inizia a cantare, perché per un attimo, questo popolo di Tokyo ha l'impressione che la vita valga ancora la pena di essere salvata e che dopo di noi verrà un altro popolo che sarà migliore di questo popolo. Un popolino, no? Un popolaccio, un popolo di pecore, di topi, di merda, perché poi c'è sempre chi sta sopra, chi sta sotto, sopra i più forti, sotto i più deboli, arrosi. Qualcosa, rosicchiare, perché non puoi andare a dormire se non hai rosicchiato qualcosa, non ci puoi andare a dormire se non rosicchi qualche cosa. A me fanno tenerezza gli uomini quando dormono, la fragilità, no? Dell'uomo quando dorme, come se dovesse scaricarsi di un fardello, come se dovesse ricaricarsi, no? Si muore prima per mancanza di sonno che per mancanza di fame. Però è come i telefoni che tu metti in carica la notte, la sera, poi la mattina vai, prendi, dopo un'ora stanno già al 10%. Tanto che poi continui a ricaricare la batteria. Può essere no. Nelle rare pause tra una battaglia e l'altra, il popolo sogna. È come se tutti fossimo finalmente pigiati gli uni agli altri, di nuovo vicini. È come se chi ha pace potesse stendersi e allungarsi per una volta a suo piacimento nel grande caldo letto del popolo. E di tanto in tanto in questi sogni risuona il fischio di Josefine. Argentino, dice lei, indisponente, diciamo noi. In ogni caso qui è al suo posto, come in nessun altro luogo. E dentro c'è qualcosa della nostra povera, breve infanzia. Qualcosa di una felicità perduta che non ritroveremo mai. E dentro però c'è anche qualcosa della nostra vita attiva di oggi. Della sua modesta, incomprensibile, eppure esistente e insopprimibile vivacità. È un fischio, naturalmente, che altro? Il fischio è il linguaggio del nostro popolo. Solo che alcuni fischiano per tutta la vita e non lo sanno. Qui, invece, il fischio è liberato dalle catene della vita quotidiana e per un breve tempo libera anche lui. fine del racconto. Josefine è esausta. Kafka scrive che è destinata al declino. Le sue richieste non sono state ascoltate e il popolo, così facile da commuovere, non si commuove più. Josefine comincia a zoppicare, si ferisce ad un piede mentre lavora e la voce sembra non essere più quella di una volta. Qualcuno dice che fa finta di non riuscire più a cantare, che ha solo paura di invecchiare. Tanto alla fine, quasi straziata, canta lo stesso. Una volta il popolo si aspettava che cantasse, come sempre, ma lei non si presentò. Era scomparsa. Josefine si perderà lieta nella moltitudine innumerevole degli eroi del nostro popolo, eroe per nulla eroica, e verrà presto dimenticata in una liberazione superiore, come tutti i suoi fratelli e le sue sorelle.